noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, buongiorno a tutti. Napoli ce l'ha fatta, come da pronostico. Poi, se vado un po' di scaramanzia, di pretattica, vediamo se due gol bastano. 2 più 2 fa 4. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Bella partita il Napoli, eh. Bella partita, l'ho vista stanotte perché ero fuori, purtroppo. Cioè, era un posto bello, ma purtroppo l'ho potuto vedere in diretta. L'ho rivista, devo dire che ha tenuto sveglio, nel senso che Tutto il meglio che si potesse vedere ieri si è verificato. 2-0 è addirittura un risultato poco rotondo, poteva essere di più. Il primo tempo è incredibile che sia finito 0-0 e mi sento di dire che, premesso che poi vincere nella vita è importantissimo, questo è indiscutibile, ed era importante passare il turno ieri, farlo in questo modo fa bene a tutti. Fa bene a Napoli, fa bene anche al calcio italiano, perché ieri tutta l'Europa ha visto una bellissima prestazione di una grande squadra italiana. Ma siamo lì a cercare sempre conferme da Napoli e le troviamo ogni volta, no? Se stecca, dobbiamo rivedere le nostre convinzioni, dobbiamo rivedere tutto quanto avevamo detto. Invece sta stretto questo 2-0, stava stretto il 2-0 dell'andata e il Nizza, tutto sommato, l'anno scorso ha fatto un eccellente campionato di Francia, come ben sappiamo. Tu dicevi calcio italiano, domani alle 18, giusto, confermi Schiattone, la nostra autrice, Paolo Corleoni, oggi in regia confermano, ore 18, sorteggione, in sala mensa c'è Sarri che non vuole, vabbè, scontato, secondo te chi può non volere Sarri, senti. Se la vorrebbe rigiocare con la Real Madrid ai gironi o preferirebbe, insomma, allontanarli? Ma visto quello fatto il Real Madrid dopo che ha affrontato noi, è dura anche rigiocarci. Ma noi a sorteggio abbiamo degli specialisti fenomenali, vedrai, mi faranno contento alla grande. Uno stadio dove mi piacerebbe giocare, Manchester United. Allora, è chiaro, chi buon vuole? Gustaio, Real, buon gustaio. Real Madrid lo vogliono tutti, no? Domani sotto col Real, buon gustaio, Manchester sì. Poi oggi c'è questa notizia fantascientifica che vi regalo, scritta da Bild, quindi per quel che può valere, ripresa per quel che può valere il 23 di agosto, c'è Abramovic che già si sarebbe scocciato di Conte perché non è partito l'anno scorso Conte sembrava sull'orlo dell'esonero e poi ha vinto, quindi penso che sarebbe assurdo fare un po' di Conte, quindi follia. Tu che sei bravo allenatore, ma non farei mai a cambio poi dopo quello che ha fatto Conte l'anno scorso, sarebbe veramente una follia. Ma di cosa stiamo parlando? Voglio considerare una buttata. È una buttata, chiaramente, anche se a me è venuto in mente subito Mourinho e i suoi primi scherzi con Abramovic, no? Il secondo anno Mourinho era il suo soldato preferito. Perché Abramovic non è esattamente un presidente morbido, non è Giampari, però è uno di quelli che vuole giustamente ottenere risultati. E poi è abbastanza chiaro che durante l'estate ci sia stato qualche incomprensione a potenza del mercato, cioè Conte è stato spesso polemico, quindi probabilmente c'è un po' di casino sotto. Detto questo, sarebbe una follia. No, devo dire una cosa a proposito del Real Madrid, della domanda di Francesco che mi è venuta ieri sera, che è vero, cioè noi per onestà intellettuale credo che dobbiamo rivedere o comunque ritarare il giudizio del Napoli in quelle due partite con il Real Madrid e anche il giudizio della Juve. Cioè, l'anno scorso Napoli e Juve, le due squadre italiane in Champions League, sono uscite contro il Real. Sono uscite anche per degli errori e delle loro mancanze, questo è indiscutibile, però quella squadra lì ha dimostrato anche successivamente di essere veramente la squadra dominatrice. Guarda, quest'anno il campionato spagnolo, cioè, sta giocando anche un grande calcio. Cioè, da questi prodromi di stagione... Ha umiliato il Barcellona in Supercoppa, ha vinto... sta meritando la Supercoppa europea col Manchester United, quindi onestamente questo vale sia per il Napoli che per la Juve, che hanno perso e secondo me hanno perso alla fine nettamente. Lascia perdere che il Napoli ha fatto vedere delle cose, degli sprazzi molto buoni, però alla fine poi purtroppo è finita 6-2. e anche la Juve nel primo tempo aveva dato la sensazione di poter mettere in difficoltà il Real, però è finita 4-1, quindi hanno perso nettamente tutte e due, non devo girarci attorno, però hanno perso contro una grandissima squadra, sì. Quindi insomma il nostro giudizio, le nostre valutazioni devono essere secondo me per onestà intellettuale un po' riparate. Chiaro, allora questo altro argomento di cui parleremo oggi, un argomento che poi vi facciamo divertire dopo la borsa, perché è l'epoca dei certificati medici, anche delle polemiche di mercato. Ieri, a proposito di uscite un po' così, ha fatto discutere quella di Mirabelli a proposito di alla presentazione di Kalinic. Pure io faccio il benvenuto a Nicola, che ci ha visti protagonisti un po' di mesi su questa cosa, però abbiamo veramente apprezzato tantissimo di come lui abbia voluto fortemente questa maglia, quindi mo gli diciamo basta scherzare, metti la palla dove sai, se no ti facciamo ritornare di nuovo là, eh? Dai, dai. Sì, Kalinic, che tra l'altro là è la Fiorentina naturalmente, Kalinic ovviamente ha detto che sono 6 mesi che aspettava questo momento, che era depresso, che è sempre stato tifoso del Milan fin da bambino, anzi fin da prima di nascere, ma ci mancherebbe altro. È chiaro che a questa dichiarazione, un po' infelice secondo me, ha risposto... Sì, è una battuta sbagliata. Sbagliata, io, sì. Sinceramente, qui la Fiorentina giustamente risposto, sì, per le rime. Mirabelli ha chiesto scusa. Cioè, noi oggi, io sai, io ho una visione costruttiva delle cose. È giusto che la Fiorentina abbia risposto, è giusto che Mirabelli abbia chiesto scusa. Finita qui, secondo me, nel senso che non è che Mirabelli consideri la Fiorentina... ha fatto una battuta... Sicuramente non è legata. Non riuscita, e hanno fatto bene a Firenze a fargli notare, ha fatto bene lui a chiedere scusa. Insomma, ripeto, non stare a fare una roba di un mese. Assolutamente, sono insomma lampi estivi che ci stanno come... La novità dell'anno è quella dei certificati medici, ma ripeto, su questo punto poi torniamo. Vi invito tutti, non ho ancora fatto, lo faccio naturalmente come ogni giorno, 800 24 0024 è il numero verde. Tornerei un attimo a Marsiglia, perché c'è un altro tema interessante. A Marsiglia, a Nizza naturalmente, Marsiglia da un'altra parte, Costa Azzurra, ma da un'altra. Non lontana. Beh, insomma, un paio d'orette di macchina. Sì, ma comunque, stessa strada, stessa spiaggia, stesso mare. Allora, Balotelli come ha giocato ieri? Aspettavamo Sneijder e Balotelli, due dei protagonisti del triplete. Come ha giocato Balotelli? Fischi? Per Balotelli? Come giudica la prestazione di Mario Balotelli? Je pas envie de parler de sa prestation. Ah, non ha voglia di parlare della prestazione di Balotelli. Il faut faire beaucoup plus pour lui et puis pour l'équipe. C'est pas suffisant ce qu'il a fait aujourd'hui. Avrei voluto vederlo uscire ancora più velocemente. Questa prestazione per me è stata totalmente insoddisfacente. Insomma, più chiari di così si muore, no? Da parte dell'allenatore del Nizza, ma d'altra parte l'abbiamo visto tutti e abbiamo sentito tutti come la platea ha sottolineato l'esibizione di Balotelli. Sono rifischi. Sì, beh, ma insomma siamo al punto di partenza, è un eterno ritorno nella carriera di Balotelli, nel senso che ci sono strazi positivi e poi ci sono cadute, e purtroppo quasi sempre avvengono i momenti che realmente, fortunatamente per il Napoli, attenzione, per il calcio italiano, perché questa volta c'era questo conflitto di interessi, però è chiaro che lui ieri sera aveva la possibilità di mettere su un bel mattoncino della sua storia, no? Della sua crescita, dopo una buona stagione, perché l'anno scorso una stagione di recupero, e poi vale il discorso altalena, facciamo dai, sempre, cioè tutto ciò che riguarda Balotelli è sempre un po' più mediatico, è sempre un po' più polemico, è sempre un po' più perché ognuno si porta dietro la sua storia, i suoi comportamenti, la sua immagine, il suo brand, direbbero gli esperti di marketing. E quindi, sì, quando c'è di mezzo Balotelli e i braccialetti, le scarpe con la cresta, queste venate qui, no, ma questo è evidente. Prestazione insufficiente, comportamento sicuramente non da leader della squadra. Passo indietro. Beh, ma eterna altalena, no? Di irregolari e di incompiuti ne conosci molto bene uno. Io non voglio fare questo tipo di accostamento, però su quell'altalena, è inutile dirlo, Antonio Cassano si è accomodato per tutta la carriera. Sì, assolutamente, anche se poi alla fine è chiaro che fa sempre notizia l'ultimo passaggio, che è stato sicuramente infelice. nella carriera di Antonio. Io l'ho detto, gliel'ho detto anche di persona, io avrei lottato, tanto più che poi Verona secondo me per lui poteva rappresentare una grande opportunità, perché è una piazza che sa dare stimoli, che sa dare adrenalina, che non lotta per lo scudetto, ma nella quale ci sono 20-30 mila persone tutte le partite. Quindi per uno come lui, abituato a grandi piazze, a tifoserie molto calde, molto appassionate, poteva essere veramente un'arma, una grande possibilità. Una bella chiusura. Non è andata così per motivi essenzialmente familiari, e quindi questo poi alla fine vale più di qualsiasi altra cosa. Sulla carriera è ovvio, tante occasioni perse, anche se onestamente io auguro a Balotelli di fare una carriera almeno del livello di quella di Cassano. Sì, ma il tassametro corre, gli anni passano, Pierluigi non è più un ragazzino. Sì, Balotelli, no, appunto, voglio dirti, cioè Cassano ha avuto sicuramente una carriera altalenante, poteva fare 100.000 volte di più di quello che ha fatto, però qualcosa ha fatto, ecco. E Mario meno, ha ancora degli anni davanti, ma Mario può fare ancora, ha ancora tutte le possibilità per fare, per togliersi più soddisfazioni di quelle che si è tolto Antonio, però deve darsi una mossa. Ti dico, la strada dell'anno scorso era una strada buona, adesso non è che ci possiamo cancellare un anno che è stato positivo finalmente, quindi io gli faccio un grande in bocca al lupo, però ho la sensazione che continueremo così a vedere cadute e poi dei rilanci, dei lampi positivi e poi di nuovo delle cadute. È sempre l'altalena. Non dimentichiamo, quando parliamo di mercato, di scenari futuri, che questa è una stagione che porta i mondiali, quindi tutti vogliono giocare. Prima parlavamo di Spinazzola, ok, questione che conosciamo bene, Juventus, Atalanta, Juventus, giocatore di proprietà della Juve, che dovrebbe stare ancora un anno Atalanta. Allora, io fossi Spinazzola vorrei rimanere all'Atalanta in prospettiva azzurra, perché è meglio giocare in Atalanta ovviamente ogni partita che stare seduto nella Juventus. E non dimentichiamo, quando parliamo di queste, di tali questioni, che questo è l'anno che per gli azzurrabili, per tutti i nazionali del mondo, insomma, rappresenta un anno importante, quindi vorranno giocare tutti. Traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Hamsik al centro Mertens, spalla lunga. Kaye con Napoli in vantaggio. Controllo di Insigne, destro in porta, 2-0, Napoli alla conquista della Champions League. La nostra forza è quella che siamo rimasti tutti insieme, allora ci conosciamo bene, giochiamo 2 anni insieme e questo si vede sul campo. Dopo il girone di ritorno dell'anno scorso siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo continuare su questa strada. È la nostra strada per arrivare a fare il risultato, se noi cerchiamo di gestire la partita la nostra storia ci insegna che possiamo andare in difficoltà. E quindi per noi era importante venire a cercare di imporre gioco e penso che la Champions sia il giusto premio per un gruppo che l'anno scorso ha fatto 86 punti e penso non era mai successo in Italia che una squadra con 86 punti non avesse fatto la Champions. E torniamo lì, ma almeno, non soltanto in senso figurato, ci andremo subito immediatamente a Nizza e alla partita del Napoli. Secondo te Pierluigi Sollazzo è contento o è sempre come al solito l'eterno incontentabile? No, Sollazzo secondo me è contentissimo, ha paura, vediamo, indovino, può avere qualche timore dell'eccesso di entusiasmo, secondo me è un discorso giusto perché è normale essere entusiasti dopo la partita di ieri sera, ma insomma lui è uno che si occupa anche di cinema e quindi l'estetica delle cose, il piacere della bellezza lo conosce molto bene perché gli piace l'arte e quindi sarà credo doppiamente contento perché ripeto, si può passare un turno, si può ottenere un risultato e va bene e lo si può ottenere anche soffrendo, anche con fatica. Io penso che per esempio la vittoria della Roma dell'altro giorno sia importantissima, certo, perché ti consente di lavorare ed è una categoria fondamentale la capacità di soffrire. Però è chiaro che quando riesce a farlo imponendo il gioco come ha fatto il Napoli in queste due partite, perché ha fatto anche l'andata col Nizza, beh, insomma, è tanta roba. È tanta roba. Bello. No, ma poi è giusto misurare l'entusiasmo, però anche l'autostima conta. Sollazzo chissà se è contento. Buongiorno Boris. No, tutte e due. Abbiamo già indovinato? Soprattutto quanto mi conosca Pierluigi, diventa preoccupante questa... questa liaison. Questa liaison. Però no, sono contento e devo dire, riflettendo su quello che dicevi tu su di me, è che ormai forse per la prima volta nella mia storia, sia di giornalista che si occupa di sport, sia di tifoso, i giocatori, la squadra e la società sono più maturi dei propri tifosi. Cioè noi abbiamo paure... Che loro non hanno più. A me ha colpito tantissimo ieri che mentre insomma a casa mia si festeggiava, eravamo felici, loro avevano vinto perché sapevano che avrebbero vinto. Addirittura cioè, a un'intervista Mertens ha risposto quando gli hanno chiesto non sembrate particolarmente felici, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Certo, e infatti questa è la bellezza della normalità nella vittoria, quello che rende le squadre forti. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non è che stappiamo con la sciabola le bottiglie di champagne nello spogliatoio. E questa è una grande forza del Napoli acquisita. Ha ragione Sollazzo. Esatto, infatti io il terrore che avevo è che ci fosse troppa convinzione, cioè il Napoli del ritiro in cui ogni 4-5 giorni c'era qualcuno che paventava vittorie. Mi sembrava a Napoli che vivesse sostanzialmente schermaglie dialettiche, però, però c'era anche una parte di training autogeno, siamo rimasti tutti, adesso vogliamo vincere. Invece capisco proprio da certi movimenti, da certi atteggiamenti che i giocatori sanno di essere forti. Poi, come io ho già detto e lo continuo a dire, sapevano di essere forti pure nell'Olanda di Cruyff. Sì, ma è chiaro. A questo Napoli continuano a mancare uomini di carattere, uomini di fisico. Però sono convinto, come l'anno scorso, che il Napoli farà più di 80 punti e ci farà divertire. E questo non è poco, insomma. Sì, ma infatti è il grande valore acquisito del Napoli, come abbiamo detto tutti per quest'estate. Insomma, poi c'è un valore, faccio un salto in avanti, scarpiato sull'aspetto sociale, sociologico. C'è una cosa bella di questo Napoli, secondo me, rispetto al Napoli di Maradona, che chiaramente è stato il primo Napoli vincente della sua storia, questo deve ancora diventarlo. E questa è una squadra, quella lì pure lo era, aveva degli altri clamorosi interpreti oltre a Maradona, però in quella squadra lì veramente l'apparizione di Maradona fu qualcosa di... No, era il superuomo che veniva, l'eroe che veniva e che riscattava tanti anni di mediocrità, prendendo per i capelli una squadra che era arrivata a un passo dalla retrocessione l'anno prima, i risultati calcistici così. Questa è veramente una squadra, cioè, questa è veramente, se vogliamo fare un salto fuori dal pallone, è qualcosa di diverso, un esempio di organizzazione, di lavoro, di gente che sta a soffrire, di giocatori che sono cresciuti grazie a un allenatore che li ha fatti crescere, quello che è successo per Koulibaly, proprio lo stesso Mertens, insomma, è clamoroso. Quindi, ma l'ha dimostrato l'anno scorso, l'ha dimostrato l'anno scorso, se n'è andato Higuain e il Napoli è uscito più forte. Questo segna proprio che c'è un collettivo, un sangue. Sì, è un progetto, Boris. È un progetto, vedi le linee di un progetto. Dai. È uno degli allenatori migliori d'Europa, contando il materiale che ha a disposizione. È davvero secondo me tra i primi tre, perché poi è facile vincere con determinati giocatori, meno con giocatori che vengono dall'Empoli, dalla Sampdoria. Ho capito, però poi per dire, scusami Boris, però per dire uno dei tre migliori allenatori d'Europa, per il calcio che gioca a Napoli, gioca un prototipo di calcio che è tra i migliori d'Europa. Però per fare un podio, secondo me l'Argentina conta come, quindi io direi calme gesso, vediamo gli anelli che metti alle dita come fanno nell'NBA. Phil Jackson ha 11 titoli, 11 rings, Sarri ancora presto, appena cominciato, ma ancora no, quindi il podio secondo me si fa anche per quello. Non ho cambiato idea, ero molto ottimista dopo l'andata perché avevo visto che il Napoli era molto più forte del Nizza, e questo insomma era... lo potevamo immaginare anche prima dell'andata, ma la partita del San Paolo ce l'aveva confermato. E secondo, perché c'era una situazione tatticamente perfetta. Io continuo a pensare che il Napoli, la vera partita di Sarri sarà la tenuta fisica del gruppo, la capacità di fare un turnover ragionato e quindi di avere più soluzioni. E ha cominciato benissimo da questo punto di vista, perché per esempio il turnover che si è visto a Verona era intelligente. E l'idea di avere il famoso piano B, cioè anche l'attacco con Bilic, perché non tutte le partite saranno con squadre, certo, che devono necessariamente scoprirsi, e io sono convinto che Napoli abbia bisogno di un po' di fisicità in certe situazioni, cioè i campionati variante vincono, tattica importante, certo, vincono anche con le partite che non riesci a sbloccare, con le partite complicate, con le partite che in cui devi buttarla dentro, buttarla in the box e avere quello che magari te la spizza, no? La Juve è un modello assoluto, perché è una squadra anche bella, secondo me, quando, perché ci sono delle volte in cui la Juve gioca a pallone benissimo. Sì, ma vale il dubbio, ragazzi, perché voi continuate a pensare che sia normale che il Napoli sia candidato per lo scudetto, invece il Napoli ha un top player in panchina che fa credere a tutti che il Napoli possa vincere lo scudetto, nonostante il Napoli è un calabrone che non sa di poter volare, voglio dire. Il punto è questo: quando io dico che è uno dei migliori tre in Europa è perché una squadra come il Napoli senza Sarri probabilmente si giocherebbe il quarto posto, così mette paura in Italia e in Europa. Sì. Poi voglio dire, non dico che è il Leicester, ma sicuramente l'Atletico Madrid, se mai dovesse vincere qualcosa, siamo di fronte a un'impresa, non siamo di fronte a qualcosa di normale. La Certo. Di normale Sarri, però non sottovaluterei l'organico, esatto, per me il personale. Ragazzi, però l'organico l'ha fatto veramente, l'ha costruito così Sarri, eh. Cioè, quando uno come Zielinski entra e spacca la partita, o quando uno come Hamsik cresce così, o quando Mertens da giocatore normale diventa un campione, quello l'ha fatto Sarri, non è che lo sono diventati loro, con altri allenatori o facevano la panchina o giocavano a Empoli, cioè... Ma che Sarri sia uno straordinario allenatore proprio nel miglioramento dei giocatori, questo è impossibile. Cioè, l'aspetto dove Sarri secondo me è più bravo in assoluto è proprio l'aspetto del campo, l'aspetto della crescita dei singoli, della crescita, del miglioramento dei giocatori, dove secondo me si gioca la partita quest'anno, ripeto, anche perché è abbastanza fisiologico. Sarri è al terzo anno sulla panchina di una grande squadra, è da 3 anni, anzi in realtà forse è da 2 anni che ha una rosa così profonda, certo, e quindi voglio dire, non è che Empoli facesse il turnover studiato e ragionato, quindi è ovvio che anche per lui c'è stato bisogno di imparare, sì, di un cammino, è chiaro. Ma lo sta facendo, per ora ovviamente lo sta facendo benissimo. Poi un'altra cosa da sottolineare è viva una preparazione all'antica, cioè il Napoli ha fatto una preparazione perfetta, rinunciando a qualche soldo sicuramente con le tournée in giro per il mondo, si è messo lì 25 giorni a Di Maro perché aveva questo grande obiettivo che valeva più di tutto e l'ha preparata alla grande, quindi anche la società perché rinuncia a 4 milioni durante l'estate per averne 40 a settembre, certo. Napoli è un piccolo miracolo in tutti i suoi, secondo me, in tutte le sue componenti, anche la società è una società che è riuscita a fare miracoli in una dozzina d'anni. E questo non bisogna mai dimenticarselo, perché loro ci hanno abituato a pensare che sia normale, ma lo dico soprattutto ai tifosi del Napoli che adesso magari pretendono. Sì. Noi guardiamo, perché ricordiamoci sempre che probabilmente senza Brian Klug il Nottingham Forest non avrebbe mai vinto 2 coppe campioni consecutive, e sì, noi siamo a quel livello là, cioè siamo una grande squadra, lo siamo diventati perché ci sono degli uomini chiave come Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri che ci hanno fatto costruire qualcosa di incredibile. Non mi ricordo nemmeno gli allenatori precedenti, perché poi tu fai bene a sottolineare i meriti della società, Boris, perché in questa, lo accennavo prima, in questa squadra vedi comunque le linee di un progetto che dalla carta si è trasferito sul campo e di un cammino di crescita che c'è stato reale. Non so se Luca da Verona, il nostro ascoltatore, 800240024, ha visto l'Opera Napoli nella sua città, sabato. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. L'ha visto? Era allo stadio? No, ieri sera lavoravo. No, io a dire la verità sono di Verona e tipo il Verona. Faccio comunque complimenti al Napoli, perché è giusto farli. Però io volevo parlare un attimo con Pardo sulla trasmissione sua di lunedì. Perché, allora... Io, diciamo, non sono d'accordo su quello che è successo allo stadio, tutto quello che si vuole, però nella trasmissione secondo me si è attaccato un po' troppo la squadra per cui tifo, senza nessuno che poteva controbattere, perché comunque Insigne, i fischi che si è preso se li è presi, perché lui ancora quando giocava a Pescara sappiamo la cosa di Insigne. Aveva negli spogliatoi, aveva sputato sullo stemma del Verona, e quando hanno festeggiato col Pescara la promozione in finale playoff contro il Verona, al ristorante insieme ad Immobile, hanno innalzato un coro sul Verona. Sì. Quindi per quello che è stato capito, però è una storia che va avanti da anni, però risponde Pardo giustamente. No, ma voglio dire, c'era su tutti i siti e sul Corriere della Sera e su Repubblica il discorso del famoso Scimmie, no? Quella roba lì. Che poi tra l'altro ho sentito dire che è successo anche altre volte. Il punto è che credo che se prendi la trasmissione sentirai quello che ho detto io e quello che ha detto per esempio lo stesso De Giovanni. Non c'è una colpevolizzazione dell'intera città, perché purtroppo episodi al limite avvengono ovunque. E guarda, adesso manca a farla apposta, 7 minuti fa chiedendomi di Cassano ho detto quello che penso, cioè che l'Hellas ha una tifoseria che ti sa dare delle motivazioni che sono da grandissimo club. L'ho detto mille volte, anche ci sono detto mille volte, quindi non è questo il punto è correggere dei comportamenti che non sono all'altezza, è un dato di fatto oggettivo. Poi la rivalità, credo di aver usato esattamente le stesse parole l'altra sera in trasmissione, la rivalità che può esistere tra squadre rivali è il sale del calcio, certo. Non mancherebbe altro, nessuno pretende che i tifosi del Verona, i tifosi del Napoli, i tifosi della Roma, della Lazio, dell'Inter o del Milan siano innamorati e a braccetto e gemellati sempre. Sì. Ma è quella cosa lì, è corretta. No, ma lascerei, lo ribadisco, l'ho detto, lo sento dire. Certo, appunto, no, lasciare la chiora guarda, perché voglio dire, l'ho detto mille volte, quindi non mi fa paura ripeterlo. Cioè, è chiaro che l'atmosfera che si ha al Bentegodi, dal punto di vista dell'entusiasmo, dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista della curva, è un'atmosfera fantastica. Certo. Pier, come sai bene, siamo in zona borsa, 14:30-43, lascerei la chiosa sul Lazio che poi salutiamo, noi andiamo avanti dopo. Sì, no, perché a parte questi aneddoti sono sempre tipo scechimiche, no? Un amico mi ha detto, ho visto e via dicendo, ma detto questo, il modo vergognoso con cui il Napoli e i napoletani vengono accolti ogni volta a Verona, io mi ricordo la mia prima volta in trasferta in un Verona-Napoli era 30 anni fa, benvenuti in Italia, ci scrissero, nasce ma da molto prima di Insigne e di Immobile. Ma quindi appunto quello che dicevo, che mi sembra un uomo molto civile, molto intelligente, a invece non lamentarsi con Pardo perché non ha difeso il Verona, ma attaccare lui, i tifosi che non rappresentano una città civile come Verona e civile come lui. No, perché veramente se continuiamo... Aspetta, raga, dobbiamo... Però, ok, no, aspetta, no, una battuta, ok. Ti devi dare un secondo, no, perché questa cosa si tenga a dirla. Purtroppo gli episodi sbagliati succedono in varie parti. L'altro giorno è successo a Verona, è finito sulla prima pagina dei giornali e noi a Fittità che ne abbiamo parlato. E non è un atteggiamento, ma succede altre volte in altri posti, quindi io sono assolutamente contrario per cultura alla generalizzazione, perché sappiamo pure che spesso si va in trasferta in certi stadi e ti accolgono, quindi non ne farei un discorso, non metterei la patente di città incivile alla città X e di città civile alla città Y. Noi dobbiamo correggere. Ragazzi, andiamo avanti un'altra volta, perché rispettiamo i tempi. Tanto saluto Boris Sollazzo, è tanto un argomento che ritroviamo purtroppo ogni volta che giriamo pagina. Borsa, torniamo. Convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Il caso che tu mi hai esposto in modo così esauriente, grazie, mi sembra perfettamente chiaro. Qui si tratta di un vaso anomalo che comprime l'uretere, quindi inutile tentare le solite terapie mediche. Qui bisogna intervenire chirurgicamente. Professore, come lei ha potuto constatare, purtroppo si tratta di gente poverissima e che non ha nessuna mutua. Tersilli, tu ogni volta mi porti il tuo piccolo caso pietoso, eh? I poveri mi fanno tanta compassione, professore. Va bene, signorina, lei terrà nel dovuto conto la raccomandazione del dottor Tersilli. Scusami, del professor Tersilli. La ringrazio, professore. Però ricordati, i poveri sono sempre quelli che pagano meno. Quante cose devo ancora imparare da lei, professore? Allora, a me è venuto in mente subito, nell'era dei certificati medici, era medievale o postmoderno, non lo so, mi è subito venuto in mente questo film di Alberto Sordi, professor dottor Guido Tersilli, primario di Villa Celeste, convenzionata con la mutua. Oggi Cristiano Gatti si è sbizzarrito come sempre in un corsivo in grigio sul Corriere della Sera. Ciao Cristiano! Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Certificati medici che spuntano come funghi, l'ultima di Niang. Rifiuta lo Spartak, vuole il Torino, stress da mercato, crisi psicologica, depressione, malessere, malumore. Oramai sono quasi banali, perché almeno ne inventassero di nuove. Purtroppo è la nuova moda di quest'estate, no? Perché come cercavo di dire, l'idea che il contratto nel calcio sia qualcosa di certo e definito non è mai esistita. Nel calcio il contratto si firma per essere stracciato, per dribblarlo dopo. Però in questo caso siamo davanti a qualcosa di nuovo, siamo davanti ai giocatori, ovviamente guidati, teleguidati dai loro procuratori, che si impuntano e per raggiungere la loro nuova destinazione arrivano addirittura a calpestare il contratto. Magari hanno rinnovato pochi mesi prima e poi dicono: io non vengo al raduno, sì, non vengo al ritiro, non mi alleno, e poi alla fine, anche per non passare, si dotano, come ogni buon impiegatuccio parastatale, di un certificato medico. Io dico sempre che bisognerebbe anche capire, conoscere, studiare questi medici che firmano tutti questi certificati, però questo è effettivamente un altro discorso. Resta il fatto che la prassi ormai è questa. Sì, ma io la trovo scandalosa, ma vedo che nel calcio si accetta tutto come una commedia, appunto ridiamoci sopra. No, ma appunto la novità, cioè il fatto di dribblare i ritiri, di stracciare contratti in essere, eccetera, non è una novità. È spuntata la nouvelle vague del certificato medico. Questo è carino, questo è interessante. Rimandiamo tutti a Villa Celeste d'Alberto Sordi, al compianto. Sì, la verità è che il calcio, che continua a proiettarsi nel futuro, no? Così dice, di fatto sta sempre più regredendo al costume parliamo dell'Italia, dell'Italietta, certo, anni 60, della commedia, perché tutto quello che si sente dire dai diritti televisivi alle società quotate in borsa, ai fondi che intervengono, alla mondializzazione, tutta modernità. Poi però li ritroviamo con il certificato in bocca. Certo, mi diventa un altro film, Ritorno al futuro, che conosciamo tutti benissimo. Sì, Pardo. Sì, ma è questa roba qui, insomma, no, è del 2.0, 3.0, 4.0, fate voi, siete il numero che volete della frontiera di questa dinamica di rapporto tra società e calciatori, che ovviamente non è quella giusta, non è quella corretta, perché è evidente che appunto, lo diciamo anche ieri, i calciatori sono comunque lavoratori, hanno i diritti, ma è altrettanto vero che oggi si assiste a una sperequazione di potere, quindi i calciatori hanno un potere molto forte nei confronti della società, alla fine decidono praticamente sempre loro e qualche volta utilizzano gli strumenti che sono diciamo al limite, dai, al limite della correttezza. Sì, al limite della correttezza. Poi devono avere la fortuna di essere, come dicevi tu, non vanno neanche in bagno senza il permesso del procuratore, cioè da augurare a loro signori di essere consigliati bene, perché parlavamo prima del caso Spinazzola, un club molto vicino a questi ragazzi per ragioni geografiche, bergamasco doc. L'Atalanta, parlando di Spinazzola, attenzione, meglio stare all'Atalanta e giocare un anno da titolare ogni singola partita, ogni singolo minuto, pensando all'azzurro, al mondiale, o andare alla Juventus a spolverare la panchina col sedere, Cristiano? Ma guarda, Carlo, io adesso, se vogliamo uscire dal clima surreale e parlare di una cosa molto seria, il problema non è tanto poi cosa convenga a Spinazzola. È evidente che chiunque saggio, un buon padre di famiglia, no, che è il criterio usato anche nei codici delle leggi, che è il criterio che meglio definisce il buon senso, no? È evidente che qualunque buon padre di famiglia gli consiglierebbe quello che hai detto tu. Però resta il fatto che poi all'Atalanta guadagna 300.000 euro all'anno, magari suscettibili di diventare 400-500, alla Juve diventerebbero, andando un anno subito, un anno prima, diventerebbe 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, per cui è chiaro che alla fine si torna sempre i soldi. Ma al di là di quello che sia giusto o sbagliato fare, Io direi che è saltata la regola fondamentale, cioè che è quella dell'obbligo contrattuale. Se non si ripristina questa minima regola del gioco, allora veramente ci sta tutto, ci sta la scelta uterina, la scelta umorale, la scelta meschina, ci sta qualunque cosa, non c'è più certezza. Allora, se vogliamo dirla tutta, io la mia idea, sarà che sono fissato, ma è che i veri responsabili di questa faccenda sono i procuratori, anche con la complicità, con la convenienza dei presidenti, no? Di volta in volta che li usano e poi ne subiscono le conseguenze. Comunque è lo strapotere di questa gente che oramai ha trasformato lo sport è bilaterale, in un mercato delle vacche, ma almeno al mercato delle vacche bastava nostre valli, bastava uno sputo sulla mano e il patto era di sangue. Invece qui non c'è più. È abbastanza bilaterale. Se questa categoria non dal di dentro non si autoregolamenta cercando di diventare una categoria di professionisti seri, il calcio andrà sempre peggio, perché vedi che ogni anno peggiora. Sì, certo, è bilaterale, dicevo, procuratori, giocatori da una parte, società dall'altra, però anche la società ha tutto l'interesse a fare inchiostrare il contratto, perché ovviamente per motivi ovvi, e altrimenti ricorre ai suoi mezzucci, no? cioè fuori rosa, tribuna, ne abbiamo viste anche di queste, no? Poi si va al sindacato. Sì, diciamo che l'automatismo che si crea è che più un giocatore si muove mediamente e più guadagna, più soldi muove, più guadagna lui e più fa guadagnare a tutto l'indotto. Cioè, l'aspetto veramente complicato, ma forse inarginabile, sono le famose commissioni, che sono, che d'accordo la commissione sull'ingaggio, sul salario di un calciatore, ma un procuratore fa l'assistito e va benissimo. Ma che possano esistere, ed esistono, lo sappiamo benissimo, delle commissioni per i procuratori, per gli agenti, per intermediari che portano un giocatore da una parte all'altra, questo di fatto crea la stortura, perché fa sì che chiaramente c'è interesse a muovere giocatori. A muovere giocatori, e quindi aspetto ancora però Pierluigi, il giocatore, aspetto il giocatore che invece dice: aspetta, scommetto su me stesso e l'anno prossimo gioco, l'anno prossimo invece di 1 milione ne becco 1,2 milioni, e può esserci anche questo, un giocatore che seppur giovane abbia qualcosa dentro i pantaloncini. Un'ultima cosa per Cristiano Gatti, poi lo saluto, perché prima ricordavo un episodio di molti anni fa. Cristiano è stato per moltissimi anni, come sapete, prestigioso inviato alle corse ciclistiche Tour e Giro. Ricordavo una volta che ci si incontrò persi entrambi sulle montagne sulle montagne calabresi. Non si è perso invece il ciclismo italiano la Vuelta, perché arriva dopo Nibali Trentin, due tappe in fila, mica male. Oh, si parla di roba seria. No, scherzo, dai, questa era proprio la pasticceria. No, ma è la dimostrazione che si sbaglia quando si dice che magari non vinciamo una classica da tempo, il ciclismo italiano. Ma la verità è che adesso il ciclismo è diventato tremendamente più complesso, più complicato. È pur vero che noi non esprimiamo il fuori classe alla Gimondi, alla Bugno, alla Pantani, insomma, che comunque lì si giudichi da un po', però ecco, noi abbiamo, oltre ai corridori delle corse a tappe che sono Nibali e Aru, abbiamo anche qualcuno, che ancora Trentino è uno di questi, un corridore completo per le classiche, non è un campione, ma è uno che è sicuramente di altissimo livello, tant'è vero che è rincorso da tutte le più grandi squadre del mondo. Ma al di là di quello, la verità è che bisogna abituarsi a vincere meno e a gustare di più le vittorie. Noi prima venivamo da un ciclismo che era fatto di francesi, olandesi, italiani e spagnoli sostanzialmente. Poi sono arrivati gli americani, e poi l'inglese, tutto il mondo, per cui questo non è male, il buffet si restringe. Ciao Cristiano Gatti. Saluto a tutti. Ciao, grazie. Cristiano Gatti, grazie. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, se volete intervenire siamo qui. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. prima sbirciavo in televisione, vedo di sfuggito la presentazione delle nuove maglie del Parma. Buongiorno Antonello, che da lì chiama. Buongiorno, buongiorno, grazie, mi sentite? Sì, sì. Grazie. Sì, volevo chiedere, voi siete più dentro di me, ma la partita di Balotelli, un ragazzo di 26 anni, che io conosco persone di 26 anni che vivono da soli, riesce a togliersi un cialetto, fa far gol, cioè prende 2 milioni all'anno per giocare in quel modo una partita, la partita dell'andata, è giusto secondo lei che... La partita dell'andata non la giocò. Non l'ha giocata. La partita di ritorno quasi neanche. Ha giocato una partita. La partita più importante fino a quel momento per il Nizza, prende 2 milioni al mese e giochi in questo modo. Sì, però Antonello, poi passo la palla a Pierluigi, non si tratta tanto di valutare la singola partita, la partita da 5, da 4 e mezzo in pagella la fanno tutti, l'hanno fatta tutti, Maradona compreso. Il problema è un discorso di continuità che è sempre mancata nella carriera di questo giocatore, che continua a salire e scendere dalle colline, nemmeno dalle montagne, come diceva giustamente Pardo, perché insomma, qualcosa bisogna anche vincere, come Cassano peraltro ha fatto. Quindi non ne farei questione di una singola partita, va valutato la continuità nel periodo, cosa che Balotelli è sempre mancata, e l'età va sottolineata, come ha fatto giustamente Antonio. Sì, qualche comportamento un po' infantile, perché poi l'aspetto vero è l'infantilismo, il corso al braccialetto, sì, cioè è questa roba qui. Poi in generale bisogna pure ribadire il concetto che non è che siccome sei pagato allora devi vincere. Perché altrimenti vincerebbero tutti, non è possibile invece che vincano tutti, quindi non è che per forza siccome Balotelli è pagato deve fare tre gol a partita. All'andata era infortunato, al ritorno ha giocato male, non è questo il punto, è che con lui, ripeto, per una questione anche di abitudine, tutto quello che succede in positivo e negativo fa più notizia. Sì. Quindi quando ci sono lui è finito sul copertino di Times, se ci ricordiamo bene, no? Sì, quindi, esatto, fenomeno mediatico più che calcistico. Oggi fa sicuramente meno notizia rispetto a 2-3 anni fa, però è chiaro, ha delle pressioni addosso, è pagato per averle, però è chiaro che rispetto ad altri giocatori tutto quello che succede nel bene e nel male è enfatizzato. Viene enfatizzato, e quindi questo, ma queste sono le regole del gioco. Insomma, il motivo, forse in qualche modo gli piace anche, è anche il motivo per cui guadagna un sacco di soldi. Lo conosco poco, però mi sembra anche a livello social, certamente uno che non ha. Che non ha voglia di apparire, non ha paura, insomma, di apparire. No, quindi non credo che ti dia particolarmente fastidio tutto questo. Ieri ha giocato male, punto di vista tecnico, era un'occasione che aveva per poterci costruire un pezzetto di futuro diverso, e non l'ha fatto. Ma non è che non l'ha fatto perché è cattivo, non gli è riuscito. Però a me dispiace, io ho sempre creduto moltissimo, come sanno gli ascoltatori, nel talento di Balotelli. Mi dispiace moltissimo veder buttato nel cesso, come così ha fatto fin qui, tutto quel talento. Poi che sia un fenomeno mediatico e queste storielle, braccialetti, queste stupidaggini gli permettono di guadagnare un sacco di soldi, perché ormai Balotelli è essenzialmente un fenomeno mediatico, è un buon giocatore di calcio che gioca nel Nizza. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, la ringrazio. A lei. Due domande, gente, velocissime. Chi è il procuratore di Niang? Il procuratore di Niang, avrei piacere di sapere il nome di questo procuratore. Raiola, Pierluigi? Mi pare, immaginavo. Raiola? Sì, che serie, perché no, non lo so adesso. Così a occhio, ho già chiuso il mio intervento, direi che non occorre altre cose. Se è Raiola, va bene, se mi avete tolto un dubbio. Quindi essendo Raiola, la conclusione qual è? Direi che non è che sia una persona che così, ho visto che tutti il suo parco calciatori ha un certo tipo di immagine. Balotelli, che ne avete parlato per anni, immagine che sembra che questo sì, ma poi ci sono anche quelli che hanno forma e sostanza, Daniele, no? Hanno forma e sostanza. Io capisco, voi siete persone favolose, però penso, se vogliamo far crescere questi ragazzi, bisogna anche dire no, ti sei comportato male, sì, come, e non perché fanno i capricetti allora bisogna, anche perché ci sono persone che guadagnano a malapena 1000 euro al mese, sì, e pagano però, regolarmente, ho finito. No, fanno fatica di prendere un biglietto per andare a vedere una partita di calcio. Sì. E avrebbero tanta voglia di avere anche un abbonamento in curva, ma non se lo possono permettere. E vedere tutto questo circo del calcio, che non hanno rispetto, che alla fin fine siamo noi che manteniamo il calcio, insomma, se noi non siamo tifosi, tutto questo apparato non so dove è. Sono le televisioni. Mi avete tolto un dubbio, e avevo un dubbio, però... ho detto vuoi che non sia, ho detto va bene, ok, benissimo, va bene, però Raiola fa suo mestiere, fa guadagnare tanti suoi assistiti, che non sono tutti brocchi o mezzi giocatori, ripeto, ci sono anche quelli che hanno forme e sostanze. No, poi posso dire anche una cosa, che adesso non è che siccome un giocatore guadagna tanti soldi debba andare per forza, faccio per dire, allo Spartak, cioè, esiste anche è una fattispecie molto complicata, perché è chiaro che stiamo parlando di privilegiati, di gente che guadagna un sacco di soldi, e perché sicuramente alcuni comportamenti sono al limite e spesso sono anche non completamente professionali. Esiste pure una libertà di un giocatore, cioè se Niang leggo appunto che ha rifiutato, che Raiola gli ha consigliato di bloccare il trasferimento allo Spartak, non ha voglia di quel campionato, non ha voglia di quella città, non ha voglia di quella squadra, è anche della logica delle cose che cerchi altre soluzioni. Poi è ovvio che il club può avere piacere che accetti un certo tipo di proposta. Mi sembra che su Schick, da quello che sentivo stanotte, per esempio la Roma e la Samp hanno trovato un accordo, però il giocatore forse non è ancora del tutto convinto. Cioè mille volte ci può essere una non coincidenza fra l'interesse della società, che ovviamente vuole monetizzare il più possibile, l'interesse del calciatore, deve andare a vivere in una città, deve andare a lavorare. Questo è la cosa più sì, più ma poi tanto lì decide il procuratore, il giocatore va come la pecora segue il pastore. Allora abbiamo ancora esattamente 4 minuti. C'è Tancredi Palmieri, che è beato lui, si trova nel luogo dei sorteggi, che è esattamente l'ultimo posto al mondo come bellezza, come piacere di vivere. Da Nizza a Monte Carlo. Viaggio lungo. A piedi sei andato. A Nizza non c'ero, ho fatto scalo direttamente da Miami. Ho preso lunga dalla televisione, direttamente. Senti, volevo chiederti appunto una valutazione, un'opinione su questi due fatti che rimbalzano dall'Inghilterra. Invece uno, sì, vabbè, l'abbiamo già battezzata, quella di Conte, di Abramovich, che non sarebbe del tutto felice di questo esordio. L'altro invece è reale, Wayne Rooney, che dice addio alla nazionale. Dunque, su quella di Conte io non so quanto avete pesato, magari forse Sport Bild si è portato un po' troppo avanti nel dire tra poche ore tu che l'arriva, però Sport Bild quando dice qualcosa c'è sempre un senso, quindi magari non vuol dire che nelle prossime ore arriverà Tuchel, però che sì, Tuchel è stato contattato, e Conte non solo alla Juventus ma anche al Bari gli successe la stessa cosa, all'Italia gli stava per succedere, aveva già raggiunto un accordo con la Roma e poi fu dissuaso da Tavecchio, per cui dove c'è fumo c'è fuoco, magari non è un incendio che prende completamente piede, però dove c'è fumo c'è fuoco. Di Rooney cosa mi dici? Rooney, allora, secondo me è stato un atto tra gentleman, nel senso che lui, nonostante si legga il suo comunicato ufficiale e venga fuori in maniera diversa, io so che lui ci sperava di tornare in nazionale, ma evidentemente non gli hanno lasciato troppo spazio, se non Southgate quantomeno la federazione, e Southgate non ha in questo momento un potere contrattuale tale a dire no, faccio quello che voglio io anche in faccia alla federazione, e allora gli hanno gentilmente accompagnato alla porta di uscita. Hanno lasciato la possibilità che fosse lui a dimettersi prima che fosse dimesso. Sì. Grazie Tancredi, buona permanenza a Monte Carlo. Wayne Rooney mancherà all'Inghilterra, io credo, e insomma mancherà al prossimo mondiale. Noi appassionati di calcio inglese, Pardo, lo sappiamo bene. Lo sappiamo bene. Fammi dire una cosa finale a proposito dell'ascoltatore prima di Verona. Io ci tengo a prestare il concetto, perché è la linea che deve valere sempre. Non esistono città civili e città incivili, non esistono tifoserie civili e tifoserie incivili. Quando succedono delle cose di cattivo gusto, vanno raccontate con la giusta denuncia, certo, anche, certo. Ma anche su questo punto di vista l'abbiamo fatto mille volte, lo faremo sempre, confermando al 100% che poi esiste tutta una serie invece di comportamenti e di persone che sono assolutamente civili. Quindi, ma certo, a me non bisogna generalizzare. L'equazione che la città X sia quella che si comporta male, non funziona, non è corretta, non è corretta. Le generalizzazioni sono sempre sbagliate ed è qualunquismo. Pierluigi, ti saluto, ti ringrazio, torniamo domani su questo argomento, adesso devo chiudere. Passo tutto, quello che vuoi. Ciao Pierluigi Pardo. Grazie a Claudio Scrittore, il nostro autore, a Paolo Corleoni in regia. Saluto anche la professoressa Lauricella, che si assorbe tutti i giorni il nostro programma. Ci sentiamo naturalmente domani alle 2. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.